Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ti porto via con me in questa notte fantastica. Ti porto via con me, ribalteremo il mondo. Un quadrato come un quattrocentista con l'esterno dentro l'area di rigore. Ancora dentro Rossi, 1-2, fantastico, Rossi, torna a giocare al Franchi e torna a fare gol, Pepito Rossi, 15 in campionato. Un temporale elettronico lava la polvere dai cuori. Io posso dire come sta Giuseppe Rosso ad oggi, cioè dopo 2 giorni e mezzo di ritiro con la nazionale. Ma in questo momento il ragazzo direi che sta abbastanza bene fisicamente, ha fatto tutto quello che abbiamo potuto fare in questi 2 giorni e mezzo. Chiaramente non posso dire se sarà convocato tra i 23 o meno, perché questa è una decisione che alla fine di questi 15 giorni farà il mister Prandelli. Certamente quello che possiamo fare noi dal punto di vista medico e dello staff tecnico è quello di monitorizzarlo e di seguirlo giorno per giorno. Adesso che sai che ci siamo, come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita. Si può vedere Cassano, pallone per lui, Cassano, Cassano! Antonio Cassano, il raddoppio del Parma! Qua il cross per Cassano che può controllare, Cassano, Cassano! Due volte Antonio Cassano! Ho già iniziato a viaggiare, ti porto via con me. State 2 ore di allenamento e tutti hanno ovviamente come primo giorno di scuola, c'è grandissima attenzione, grandissima voglia di mettermi in difficoltà. L'ho trovato sereno perché, come diceva l'intervista, si è rimesso in gioco in quest'ultimo anno e lui ha vinto, perché quando ti rimetti in gioco azzeri un po' tutto, e a quell'età, che ormai è un'età matura, si è reso conto che probabilmente è l'ultima occasione importante a livello professionale. Ti porto via con me. Dunque, su questa introduzione del nostro dottore Franco Piantanida proviamo a tradurre la giornata azzurra, tanto per cominciare. Quella che avete sentito prima di Prandelli era la voce di Enrico Castellacci, il dottore che oggi è stato protagonista della conferenza stampa. Avete sentito cosa ha detto Castellacci a proposito di Giuseppe Rossi? Sta abbastanza bene, ha fatto i compiti in questi giorni, noi stiamo facendo il possibile per recuperarlo. Poi ha parlato anche di Cassano dicendo: non l'ho mai visto così in forma, Cassano brillantissimo, sta da Dio, eccetera eccetera. Prandelli, avete sentito, ha parlato di Cassano, si è giocato benissimo la sua prima chance professionale, queste erano parole dell'altro giorno. Su Giuseppe Rossi aveva detto: beh, già un miracolo che sia qui. Insomma, proviamo a tradurre tutto questo, la sensazione che al di là di tante chiacchiere con CT che dice ma alla fine potrebbero venire anche tutti e due in Brasile, magari Cerci può diventare un centrocampista, tutto questo non accadrà. In realtà la sensazione è che il ballottaggio sia tra questi due, tra Cassano e Giuseppe Rossi, e che sul volo per il Brasile salirà Antonio Cassano. Non ti fermare da questo equilibrio, se guardi si vede lontano tutti i colori. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, e voi sempre presenti, 800 24 00 24. Pardo sta arrivando, tra un po' mi raggiunge qui in studio, poi non lo vedo tra l'altro, e al migliore in campo di oggi tra gli ascoltatori, come sempre, la maglietta di tutti i convocati. Domani ci sarà qui con me il convocato, anzi in questo caso sarà la convocata per un giorno. Quindi di tutto questo parleremo dopo, così come parleremo di mercato, ragazzi, a nazionale, Cassano, Giuseppe Rossi eccetera, però tutto intorno, come al solito, come da tradizione, prima di una grande spedizione e prima che cali il grosso modo il silenzio mondiale, si parla un sacco di mercato. Immobile, abbiamo sentito ieri la sensazione che vada verso la Germania, anche se al momento i soldi non bastano. Poi tutti vogliono Benatia, anzi tutti vogliono qualche pezzo della Roma, perché c'è Strootman che è stato avvicinato dallo United, pare abbia detto di no. Gervinho, che scrivono in Francia, ha chiesto la cessione se non gli daranno l'aumento. Insomma, tutti vogliono un po' della Roma di Garcia. E poi c'è il capitolo Milan, dove l'altro giorno quel pullman si è trasformato, il pullman che portava i giocatori verso la sede si è trasformato in un ring. Ne parliamo tra poco. Tutti convocati. E tutti i convocati che scrivono vogliono Giuseppe Rossi in nazionale. 800 24 00 24 per chiamare e dircelo di persona, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ma tutti vogliono Giuseppe Rossi, per la verità lo vorrei anch'io ai mondiali, uno come lui non lo lascerei a casa. Poi vediamo cosa succede, vediamo come sta, vediamo quanto recuperano, non è scritto da nessuna parte che non possa diventare, magari viste le condizioni, un giocatore tattico. Tra parte Prandelli ha detto che insomma non ci sono 11 immutabili, che nessuno va in gita, nessuno va in Brasile in vacanza, che potranno entrare a seconda delle necessità della partita. Insomma, non vedete questo discorso di... non possa valere anche per Giuseppe Rossi. Vabbè, ditecelo 800 24 00 24. Intanto io vi dico qualcosa di mercato, vi dico anche qualcosa di pugilato, visto che fa rima. Luca Marchetti da Sky, ciao, buongiorno. Ciao a tutti, come stai? Impegnato? Bene, via. No, perché sapevo che mi avreste chiamato, quindi sono liberato. E quindi hai detto a tutti i procuratori: fermi, nessuno si muova, nessuno firmi alcun contratto. Tanto un contratto firmato c'è, quello di Agazzi, l'ha preso, sì. Il Milan andrà a collocarsi tra Abbiati, che ha rinnovato, e Gabriel, che mi pare un discreto brocco. Sei cattivo. No, come? Sei cattivo. Ma cattivo, mia sensazione, a me pare un brocco, poi non lo so, bravo? No, io non lo so, non l'ho visto mai. Ma nessuno l'ha visto mai, sta lì a fare il terzo, quando l'abbiamo visto non mi sembrava un granché, quindi... Posso supporre che sia un discreto brocco. No, ma tra l'altro Agazzi va a prendere il posto di Amelia, che come ben sai ha fatto a cazzotti con Bonera sul pullman l'altra sera. Sì, diciamo che non è stato, credo, forse l'unico episodio di stapori fra giocatori nella storia del calcio, però anche questo conta quando uno deve rimanere o andarsene da una squadra. È inevitabile che succeda questo. Gabriel ha deciso lui che vuole rimanere, ha parlato con Galliani l'altro giorno, ha detto che vuole giocarsi le chance di Milan. Ragazzi, credo che non abbia firmato proprio ieri, No, ha firmato ieri, ha firmato qualche giorno fa, no? Sì. È stato reso noto, però è arrivata la velina, quindi Agazzi giocherà nel Milan, o meglio, guarderà Abbiati aspettando il suo turno. Ma togli una curiosità, prima di parlare di Immobili e tutti gli altri, questa storia dell'allenatore del Milan. Allora, Seedorf va via, pare che versione ufficiale, tra molte virgolette, pare che lo scazzo tra Bonera e Amelia sia stato per questione di Seedorf, bei tempi quando i giocatori litigavano per le donne, qui pare abbiano litigato per l'allenatore, quindi Bonera contro Seedorf, Amelia invece stava con Seedorf, ma a quanto pare il motivo è questo. Però Seedorf, allora... stiamo aspettando che il Milan ci dica qualcosa. Qualcuno ha fissato la deadline alle elezioni europee, dopodiché interverrà Berlusconi e chiarirà tutto quanto quando avrà un po' più tempo libero da altri impegni. Non è che stanno aspettando come si sente in sottofondo l'esito della finale di Champions League. Io a un ritorno di Ancelotti al Milan sinceramente non ci credo, però una delle voci è questa. Guarda, lo so, non ci crederei neanche io. Purtroppo per noi il mercato sfugge a qualsiasi tipo di logica. Sì. E quindi le cose che ci sembrano impossibili alle volte diventano concrete. Ti dico la verità, noi queste voci le abbiamo raccolte e credo che sia una delle voci più insistenti intorno al Milan. E ti dirò di più, le soluzioni più improbabili in questo momento sono le più certe. Concedimi questo paradosso. Perché che rimanga Seedorf io non lo escludo a priori. Perché in un momento di difficoltà spesso le cose rimangono così come sono. Sì, sì. Quindi le due soluzioni più improbabili, ovvero la permanenza di Seedorf o il ritorno di Ancelotti, in questo momento paradossalmente sono le più concrete. Sì, sì, sì. No, ma poi il vento è questo, no? Quello degli allenatori sotto condizione, Conte, Mazzarri, e figuriamoci se Seedorf in tempi di carestia. Anche i denari dei contratti pregressi sono importanti. Io l'ultima sul Milan, sì. L'ultima voce che gira in ambienti di mercato, Prandelli, che ancora formalmente non ha rinnovato. Sì, però dice lo fa in un anno secondo, questione di dettagli. Ma ancora non l'ha fatto. Allora, fino a che non c'è la firma, è libero di dire quello che vuole. Fino a che non vedo, non ci credo. Tra l'altro Prandelli dovrebbe rinnovare per 1,7 milioni, 1 milione e 700 mila euro. Quindi guadagnerebbe, dunque Guardiola ne prende, mi pare, 17, Capello ne prende 9 o 10, poi diciamo chi c'è? Che non siamo la federazione più ricca del mondo. No, e poi qualcuno dice, ah però in un tempo in cui i manager devono, ma di cosa stiamo parlando? Quindi c'è la, insomma, anche i manager si tagliano stipendio, stiamo parlando di calcio, sono altri discorsi ed è un altro tipo di mercato. Luca, cosa mi dici di questo? Il Borussia è una squadra importante. Se non importantissimo, l'anno scorso ha fatto la finale di Champions, quindi per me giocare la Champions l'anno prossimo sarebbe una cosa importante anche sotto un punto di vista della mia crescita. Caldirola e Donati, l'hai sentito? Ti ha raccontato come la Bundesliga? Sì, li ho sentiti, ho visto anche le interviste che hanno fatto. Ci ho parlato con loro, si trovano molto bene, hanno detto che il campionato tedesco è migliorato tanto, è diventato uno dei campionati più importanti al mondo, quindi si trovano benissimo loro, anche se fanno un po' di difficoltà con la lingua, però come si dice, noi napoletani ci facciamo capire dappertutto. Noi napoletani ci facciamo capire dappertutto. Poi vi faccio sentire anche cosa ha detto il presidente del San Paolo a proposito della voce su Ganso, ma questo è un altro discorso. Da Luca Marchetti volevo una spiegazione invece sulle parole di Immobile. Va al Borussia Dortmund, no? Penso che sia. San Ciro. Auffider San Ciro, mi sembra. Sì, cioè, ti dico, l'ultima cosa è che ieri Marotta e Cairo si sono incontrati e Cairo ha lasciato capire a Marotta che se l'offerta del Dortmund è fra i 16 e i 18 milioni di euro, allora lo prende lui tutto il cartellino Immobile e poi tratta lui. E mi sembra una buona idea. Sì, non è detto che ci faccia molto di più, però potrebbe essere una chance. Cioè, io da quello che sappiamo è che Immobile l'accordo con il Borussia Dortmund ce l'ha e ci mancherebbe pure, perché gli offre praticamente più del doppio di quanto guadagna adesso al Torino. E anche questo giocatore. Ma perché la Juventus non vuole il capocannoniere del campionato? Ma perché credo che abbiano altre idee, andrebbe a insistere in una zona di campo dove hanno Llorente e Tevez. Se il prossimo anno poi giocano nel 4-3-3 sarebbe la terza punta della Juve centrale. Sì. E quindi stanno pensando, si legge, a qualche nonno del gol. È anche uno di quelli che se lo vendi ci fai soldi. Ah, questo è sicuro. Anche la Juve deve fare i conti con questo. No, questo fine vendi, certo. Vendi quello che puoi vendere. Sì, no, ma questo è anche questo non è una cattiva idea, perché vendere Immobile dopo che insomma ha vinto la classifica canoniere, è stato il suo anno e tutto quanto, mi sembra il momento sarebbe perfetto dal punto di vista strategico. Ho un'altra voce a farti sentire, questa. Io ve lo posso anche dire, ma sarà irraggiungibile, ma per farvi un'idea del giocatore con mente, che sarebbe il top, ripeto, sarà un obiettivo credo irraggiungibile, tipo Luis Gustavo. Questo è un giocatore che se ce l'hai può fare anche la difesa a 4 nel modo migliore per come penso io al calcio. Mazzarri che vuole Luis Gustavo? Beato lui, ci vogliono 33 milioni di euro della clausola. Ah, però... bisogna dirlo a Toier, ma non credo sia molto d'accordo. No, piste realistiche quali sono per l'Inter? Ma dalla Bundesliga c'è Chaka, che è uno svizzero che gioca nel Borussia Mönchengladbach, che nell'ultima parte di campionato non ha giocato molto, ma credo che sia un classe 90 di grande prospettiva. C'è Obi Mikkel, che hanno seguito molto durante anche la Champions League, un giocatore di questo tipo. C'è Berami, che potrebbe andare via dal Napoli. Questi sono i giocatori che più o meno sta cercando l'Inter. È chiaro che un giocatore da 30 milioni di euro in questo momento l'Inter non se lo può permettere. No, altrimenti Toier comincia a parlare in indonesiano, dice no, non capisco. Allora, questo invece è fronte Juventus, Giaretta, direttore sportivo dell'Udinese. Sì, Pereira piace molto la Juventus e non solo, un giocatore che anche quest'anno, il terzo anno di Serie A, si è consolidato ad altissimo livello. un centrocampista completo, molto giovane perché è un 91, quindi l'interesse da parte della Juventus è legittimo. Ci sono possibilità che l'affare vada anche in porto, mi sembra di capire. C'è un dialogo aperto con il club bianconero, quindi ci auspichiamo eventualmente, per come stanno andando le cose, che possa arrivare anche una buonissima soluzione. Allora, Juventus Pereira. Se non sbaglio ho sentito la voce di Sugoni, quindi era una dichiarazione che ha fatto qualche minuto, qualche ora fa, sì, ora fa Sky. Da noi. Sì. Guarda, ti confermo naturalmente quello che ha detto Ceretta. Peraltro oggi gli Udinese e Juve si incontreranno nuovamente. Sul tavolo ci sono tantissime cose, perché oltre a Pereira c'è le comproprietà di Pasquato e Isla, che magari sono una cosa minore, ma comunque valgono soldi. Certo. E soprattutto ci sono le comproprietà che ha l'Udinese con Fiorentina e Lazio di Candreva e Quadrado. E quindi non è detto che il discorso non si allarghi pure un po'. Sì, è sì, evidente sì, che la Juventus vorrebbe inserire nell'operazione dei giocatori. Finora quelli proposti, a quanto ho capito, hanno usato, non ha fatto impazzire di gioia l'Udinese, però Udinese e Juve un affare all'anno lo tirano fuori sempre. Pereira è il più accreditato. Io l'attenzione su Candreva, soprattutto più che su Quadrado, che mi pare abbia offerte fortissime all'estero, non la abbasserei l'attenzione. Anche perché quello è uno dei nomi che da giorni si sentono, vengono accostati, sì, alla Juventus. Caro Luca Marchetti, prima di restituirti ai tuoi amici procuratori, ti faccio sentire un'ultima voce, che è quella di Carlos Miguel Aydar, presidente del San Paolo. Nelle ultime ore c'era stata questa voce: Napoli su Ganso. Lui ha risposto così: Presidente, a pergunta che non quer calar, Paulo Henrique Ganso, tá na prateleira ou não? O presidente quer perguntar para você o seguinte: mas se chegarem com um caminhão de dinheiro, o pessoal lá da Sicília, lá do Nápoles, chegar com um caminhão de dinheiro? Vem a camorra toda. Não, São Paulo não está preocupado em vender jogador. São Paulo é um clube comprador. Dunque, è in portoghese però molto chiaro, l'ha toccata pianissimo, dicendo: ma non bastano tutti i soldi della camorra per prendere Ganso. Io non avevo capito. No. Beh, ho capito, non servono neanche, perché non bastano tutti i soldi della camorra per prendere Ganso. San Paolo compra, non vende. Benissimo, se lo tenga allora, perché credo che il Napoli peraltro non mi interessa. Molto volentieri, glielo lasciamo, sì, molto volentieri. Sì. Glielo lasciamo molto volentieri e basta. E basta, non voglio aggiungere altro. Luca, ti ringrazio. No, infatti, non aggiungiamo altro. No, guarda, non. Basta così. Sì. Certamente, non. Nel prossimo campionato, la prossima stagione, non faccio il tifo per il San Paolo. Questo è sicuro. Questo è certo. Grazie, grazie, Luca. Un abbraccio. Ciao. 800 24 00 24. C'è un ascoltatore che prima che inserissi in estasi questo discorso, il presidente del San Paolo dovrebbe ammazzarsi, ha scritto un ascoltatore via SMS. No, dovrebbe ammazzarsi, no, dovrebbe parlare in maniera un po' più civile. 800 24 00 24, numero verde. Tutti convocati. Tanto per chiarire, fuori un'interpretazione autentica, non ho detto che twitteristi sono scatenati sul fatto che ho detto che Agazzi è un brocco. No, secondo me Agazzi è un ottimo portiere, è Gabriel che è un brocco, almeno a me pare un brocco, è terzo portiere del Milan, rimarrà lì, si accontenta di guardare gli altri, di fare allenamento. Quando l'ho visto non mi è sembrato un gran portiere, tutto qua, ma confermo, non smentisco mica. Ascoltatori 800 24 00 24, sì, caro tu che scrivi, presidente San Paolo ha detto veramente una minchiata, non c'è dubbio. Manuel, buongiorno. Volevo la mia classica base ecclesiastica quando si parla del coach Sinisa Mihajlovic: fumata bianca habemus mister, santo Sinisa ora pro nobis. Dove? Torna alla Sampdoria. Vabbè, ma per forza, la Juventus non ha voluto. Per forza, mica tanto. L'ho vista, mi sono rivisto in panchina un qualche fantasma. Io sono, sì, sono molto contento. Volevo chiedere se avevate una qualche novità in termini di mercato, se Gabbiadini resta, se sapevate qualcosa della mia povera Samp, che nessuno Gabbiadini, ne parla. Però Gabbiadini resta forse. Forse, ni. Perché ni, sì. Direi che non ha fatto una buona stagione, ma non straordinaria. però non è così certo che resti lì. D'altra parte, Manu, ma lei non si è arrabbiato un pochino per questo tira e molla di Sinisa Mihajlovic? Cioè la Sampdoria, insomma, ha detto allora firmiamo il contratto, squadra, qui a mio avviso, perché la tengo, la tifo, solo sì. Che mentre Sinisa ha detto aspetta un attimo, da fare devo vedere gente, incontrare persone. La Juve in Italia purtroppo è così, c'è poco da fare, cioè quando ti chiama la Juve chiunque non dice no, sto alla Samp, o no, sto al Genoa, o no, sto, è normale. Io da tifoso Bravo, dico no, questa sto è una alla Samp. Questa è un'affermazione da tifoso intelligente. No, sto alla Samp, dico io da tifoso, ma da allenatore che ho tutta una carriera davanti, magari ti si brucia la carriera andare alla Juve se non sei pronto, ma però insomma, speriamo in un anno migliore di piazzarci in UEFA e forse Sampdoria. Cambiasso lo vorresti? Ma magari, sì, lì in mezzo farebbe comodo, con Soriano, Palombo, Cambiasso, sarebbe bello magari, ma Cambiasso è non viene. Tanta roba, non tanta viene. Roba. Va a River Plate. Non viene mai nessuno da Sampdoria. Ma non buttarti giù, grazie Manuel. Grazie mille, ciao Vegeta, grazie. Ciao. Luca, buongiorno. Buongiorno a lei, io sento che Pardo non c'è, io ho una domanda. No, ma adesso arriva, ha perso il traffico, dica. Io gliela faccio, poi se vuole mi risponde in diretta. No, una considerazione, io a livello amatoriale mi sono fatto male come Rossi, io penso che Rossi senza una minima certezza di essere convocato non avrebbe affrettato questo recupero. Io sono convinto che con Prandelli abbia parlato chiaro, abbia detto io recupero ma in Brasile mi porti. Sì, questa è la mia però Luca, come si fa a dire io recupero però in Brasile mi porti? Cioè bisogna vedere i tempi di recupero, bisogna vedere come sta, cioè, ma può aver detto io recupero, poi mi valuti, e infatti lo sta valutando. Prandelli ha detto, è già un miracolo che sia, considerando da dove è partito, dal tiro di infortuni eccetera eccetera, ha fatto io, già un miracolo di essere qui. Lo porti. No, ma quello anch'io, quello anch'io, anche se è legittimo pensare che, non, che si possa valutare ed eventualmente decidere di non portare un giocatore che ha subito poco tempo fa un infortunio così grave. D'altra parte le vigilie delle competizioni internazionali per la nazionale italiana sono state, hanno avuto diversi casi come questo, si ricorderà anche Inzaghi che fece tutto per andare, poi non venne portato all'europeo, se non ricordo male, e insomma io capisco anche l'allenatore che dice vabbè, io voglio partire con 23 giocatori che stanno bene e non con delle incognite. Detto questo, è un giocatore talmente importante Giuseppe Rossi che ci penserei bene prima di lasciare la casa, anche perché se proprio può fare quello che ha fatto benissimo nelle ultime partite contro la Fiorentina, tanto per cominciare, cioè può essere il giocatore che entra e risolve, l'ha fatto la Fiorentina, tra l'altro può avere queste caratteristiche, quindi io non lo lascerei a casa, anche perché insomma ai mondiali gli attaccanti sono quelli che decidono tutto, cioè è il ruolo più importante, sono come in tutte le competizioni che bruciano in fretta, hai bisogno di chi te risolva, di chi ti faccia gol, quindi insomma io lo porterei. A proposito di gol forse futuri, in versione juventina, ci sono parole di ora del presidente, di John Elkann, presidente di Exor. Beh, sapete che è inutile che faccio tutta la trafila delle cariche, sapete perfettamente chi è John Elkann e cosa voglio dire per la Juventus. Ha parlato di Conte. Se ho mai temuto che potesse andare via, è la stessa domanda dell'anno scorso, però stavolta è più pertinente. Conte l'ho sentito ieri di ritorno allo stabilimento di Melfi, lui è convinto di quello che ha davanti, è indubbiamente soddisfatto, come lo siamo tutti, di quello che è stato fatto. Persona che guarda sempre alle sfide future, anche noi. Se rinnoverà il contratto, c'è molta serenità da parte di tutti per andare avanti in questo modo. C'è molta serenità da parte di tutti per andare avanti in questo modo. Quindi rinnovo, ma calma e gesso, vedremo, forse, ma anche no. Elkann ha parlato anche di Drogba. Sapete come il nome di Drogba, anni 36, salvo diverse interpretazioni alla Mourinho, anni 36 per i certificati ufficiali, ebbene sia stato accostato alla Juventus, anzi in Francia dicono che sia davvero molto vicino alla Juventus. E su di lui John Elkann dice, troppo vecchio, ma no, Roger Milla, qualcuno se lo ricorderà, centravanti del Camerun, non era un bambino quando riuscì a sorprendere tutti con il Camerun, quindi troppo vecchio non è vero, potrebbe arrivare alla Juventus. Allora mi domando, si dice prima con Luca Marchetti, con Immobile le punte centrali sarebbero troppe. Va bene, però è giovane, capocannoniere del campionato, può essere facilmente monetizzato in questo periodo, però vai a prenderti un nonno del gol, Didier Drogba, anni 36, tra l'altro c'è anche un altro nome accostato alla Juventus, cioè quello di Eto'o. Questo mi lascia quest'idea, se è vera, mi lascia un po' perplesso. Uno tra Pogba e Vidal potrebbe partire, domandano del Can. Non parlo di questo argomento, ma il mercato si farà interessante dopo i mondiali, quindi vuol dire che è probabile. Io provo a interpretare le parole, se avete qualche interpretazione diversa ditemelo. 800240024 è il numero verde. Claudio? Eccomi. Eccolo, dica. Allora, parliamo del mio povero Milan. Ma che cosa sta succedendo? Abbiamo due amministratori delegati, abbiamo due che si scassottano, sì. Abbiamo tutti quelli che, di cui non se ne parla mai, tutti quelli che ritornano e che non sappiamo dove mettere. Nocerino, Matri, Touré, Niang. Io ho l'impressione che il nostro presidente sarebbe meglio che vendesse il tutto e se ne andasse. Ma già detto che non... Ditemi che qualcuno di questi è già piazzato, di quelli che tornano. Non è facilissimo, Non è facilissimo piazzare questi giocatori reduci comunque da periodi non brillantissimi. Già è difficile piazzare quelli che hanno giocato bene. Guardi cosa sta succedendo con Immobile, che si è lì a trattare con il Borussia. E alla fine, per un giocatore così, viste le quotazioni e valutazioni attuali, si diceva prima 33 milioni per Luis Gustavo, che è un bravissimo giocatore, ma non appartiene alla categoria di quelli che ti fanno la differenza. Se quello vale 33 in Bundesliga, il valore della clausola rescissoria, 16 per Immobile, che potranno diventare 18, ma comunque siamo lì, siamo su quei soldi che verranno spartiti tra Juventus e Torino. Non mi sembra una grandissima cifra. Si immagini lei in questo momento riuscire a piazzare Matri, ha detto poi che chi era nel Nocerino, poi chi è che torna? Non mi ricordo neanche più. Claudio? Touré dura, Touré veramente dura, anche con tutta la buona volontà. Poi chi torna? Niang a me piace abbastanza, però ho l'impressione che non, diciamo così, che non sia un giocatore molto solido caratterialmente. Sono stato bravo? Poi chi torna? Gentile, spero. Tornano questi. Ecco Pardo, l'ingresso in diretta di Pierluigi Pardo, elegantissimo, con giacca, cravata. Ma dove sei andato a sposarti, a fare la comunione? Ho fatto una roba, no. Camicia bianca, cravatta nera, dovreste vederlo, elegante. Cappello in ordine. Bello, che hai fatto? Bello. Che hai fatto? La tela di capelli l'altro giorno, No, lo so, ma così elegante. Devo fare delle riprese. Delle riprese televisive. Va bene, allora adesso. Magico web. Sì, sentivo la domanda su Giuseppe Rossi, io vi ascolto mentre venivo in domanda macchina. Su Giuseppe Rossi, benissimo. Riprendiamo l'argomento dopo il traffico. Vai. Come traffico. Convocati. Bene, dunque, è arrivato Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, io vado. Ciao. No, stai. Okay. Lucio, stai. Che film è Lucio, stai? Non mi ricordo più. È un gran film, con Carlo Verdone, Leonora Giorgi. Carlo Verdone si finge, prende esempio da Manuel Fantò. Lui praticamente fa il venditore porta a porta dei giganti della musica, che è un'enciclopedia musicale, ed è insomma questo pacioccone un po' col padre di lei, della fidanzata Mario Brega, che gli dice te la sposi o non te la sposi, qua è già tutto ingranato. Allora lui improvvisamente cerca di fare, continua in questa sua attività, però insomma è un po' frustrato, non sa se sposarsi o non sposarsi, e deve ingranare con questo lavoro e va a vendere queste robe porta a porta. A un certo punto incontra Manuel Fantoni, che è uno strafigo di questi qui con 800 donne, quello che gli dice un bel giorno imbarcai su un cargo battente per bandiera liberiana. No? Lui improvvisamente diventa Manuel Fantoni, capito? Acquisisce questo ruolo e questo allure alla Manuel Fantoni. E si finge grande amico di Lucio Dalla, portando Eleonora Giorgi fuori dal concerto di Dalla, con lei che voleva parlare con Lucio e lui entra, ci sono soltanto dei cani che urlano nella roulotte di Lucio Dalla e fa: Lucio stai Lucio stai Lucio ciao Lucio stai, ecco, vabbè. Dopo lo guardo, vado a casa per sono i capisaldi questi, lo so, ma proprio sono le basi, sono i classici. Io ormai guardo solo dello sport in televisione, fai molto bene. Senti, prima di Giuseppe Rossi, mercato, queste cose, salta a Monte Carlo Flavio Vanetti, Corriere della Sera. Ciao, certo. Flavio. Ciao Flavio. Ciao a tutti. C'è il calciomercato, ma c'è anche il mercato dei piloti. Allora, oggi ho letto attentamente, Ron Dennis ti ha detto, hai scritto sul Corriere della Sera, se Alonso vuol tornare noi ce lo riprendiamo. Alonso risponde: ho più attestati di stima da loro che non a casa mia alla Ferrari, ho già parlato Montezemolo, tutta colpa dei giornalisti. Han capito niente, come al solito. Come al solito. Allora, vediamo un po' di riordinare le cose. Vabbè, io sono stato da Ron Dennis e chiaramente una delle domande non poteva non essere quella sul futuro di Fernando, visto che è da un anno che circolano questi rumors relativi alla sua interruzione del rapporto con la Ferrari e al ritorno in McLaren, e Dennis è stato molto chiaro, peraltro è stato anche molto chiaro nel dire che si riprenderebbe Hamilton se Lewis lo volesse, così come farebbe un pensierino a Vettel qualora decidesse Sebastian di lasciare la Red Bull. Quella relativa appunto alla reazione di Alonso invece è una cosa che nasce da un evento avvenuto in Spagna, dove c'era il presidentissimo da Daimler, Zetsche, che ha elogiato Alonso dicendo che Fernando è il miglior pilota della Formula 1. Sinceramente mi sembra anche un po' un'azione, come dire, all'insegna della piaggeria, probabilmente se fosse stato in Italia magari avrebbe detto che Fisichella è il miglior pilota del mondo, però detto questo l'ha detto, e avendo in squadra in questo momento Hamilton e Rosberg che si hanno nominato il mondiale, sicuramente la cosa fa un po' sensazione. La cosa è stata riferita in conferenza stampa a Fernando, e Fernando, al di là del sentirsi lui ingato, ha aggiunto quella postilla, a volte fa veramente appunto sensazione vedere che sei più magari considerata dall'esterno, ma dove sei tu. Non ha fatto un riferimento specifico alla Ferrari, però era evidente che quello era il punto in cui andava a parare. Ecco, c'è una minore, magari non ha detto neanche considerazione, ha detto magari minore attenzione. Sì. E oggi c'è stata appunto la reazione di Luca di Montezemolo, da un certo punto è comprensibile, ma sostanzialmente fosse anche un po' un'excusatio non petita. Io sarei stato tranquillamente zitto nei suoi panni, anche perché comunque scaricare a colpa ai giornalisti è la solita è la cosa più facile di tutti. Ti faccio sentire, che poi è anche sbagliata, ecco, sostanzialmente. Ha parlato Monsieur Briateur. Così. Mi spiace, lui certe volte fa delle provocazioni, ma bisogna anche capirlo, no? Perché è un ragazzo che da tutto, è un team player, perché poi vedo che anche i meccanici hanno tutti un buon rapporto con lui. Magari certe volte non sorride, mediaticamente non è che sia una grande star, no? Perché ma tu hai sempre detto che non è simpaticissimo, cioè scherzando dicendo. No, ma lo è, ma sai, sono ragazzi che da 14 anni guidano macchine, hanno solo visto circuiti e macchine da cosa, per cui. Però lui è molto affezionato alla Ferrari, affezionato ai tifosi Ferrari, e la vedo dura andare via di qua. È molto più semplice che la Ferrari faccia una macchina competitiva, così si risolvono tanti problemi, e si risolvono problemi per Fernando, ma si risolvono anche dei problemi per la Ferrari. Cosa dici per Luigi? Ma innanzitutto non ho mai capito se si dice, posso essere banale, circuito o circuito, perché hai sentito, Briatore, circuiti, ragazzi. Beh, che il Briatore parla una lingua sua. Ah, ecco, quindi top, no, com'è che dice, top. No, insomma, quindi circuito, possiamo stare sul circuito. Possiamo stare tranquilli. No, c'è una formula per far uscire la Formula 1 dalla noia del momento attuale, o è una noia che percepisco soltanto io da profano? Ma è una bella domanda. Io credo che innanzitutto bisogna forse avere un po' di pazienza affinché questo nuovo assetto si stabilizzi. Ad esempio, io ritengo fondamentalmente la questione del rumore diverso un falso problema, è semplicemente un rumore differente, ci si abituerà. È chiaro che nel momento in cui è un team dominante come la Mercedes, tutto il resto sembra davvero noia. Io credo ci vorrà un po' di tempo, ripeto, un assestamento, una crescita sicuramente della Renault della Red Bull, quindi la Renault nel senso dei propulsori, la Ferrari che prima o poi dovrà trovare un sistema per essere competitiva e poi ne riparliamo. Di sicuro non, ci sono un po' di cose anche da rivedere forse nei format anche delle qualifiche, le gare forse magari sono un po' troppo lunghe, in effetti si potrebbe accorciarle un attimo, cioè creare qualcosa di diverso. Purtroppo la Formula 1 vive anche di uno schema che si reitera da anni secondo dei canoni e forse è anche il momento magari di ridiscutere, oltre che di costi, certo, e di spese, anche di queste cose qua. Adesso, per dire, le seconde prove dovevano partire alle 2, ma dato che c'è stato un acquazzone verso l'1 anche con grandine, per 45 minuti nessuno ha girato, allora la gente era comunque in tribuna, ha pagato un biglietto per vedere l'asfalto senza nessuno in pista. Poi io capisco che quando c'è l'asfalto bagnato uscire può essere pericoloso, soprattutto a Monte Carlo, e non hai nessuna indicazione che gli aspetti che escano le macchine scoppa, ma questo è proprio il momento di ragionare, bisogna trovare un modo per dare uno spettacolo diverso, questo è indiscutibile. Certo, altrimenti a quei signori che se ne hanno un sacco smetteranno di pagare tutti quei soldi. Doni, certo, per andare alla Formula 1. Grazie Flavio, certo, buon lavoro. Ciao, voi, ciao, ciao, ciao. Andiamo a Monte Carlo? Ma si sta male. Salto si può fare. Che se non è esattamente, punto di vista estetico, non è esattamente il mio luogo preferito. Quando parti per il Brasile? Il primo giugno. Siamo a Cassano, lo sai, sì, è ufficiale, va. Cioè, ufficiale. Sì. Ma oggi anche. Dopo ti faccio sentire cosa ha detto Castellacci, che non l'ha mai visto così bene. È perfino diventato più bello, è più alto. Più bello lo escluderei, no? Diciamo che ho fatto un paio di cene ultimamente, sono rimasto sconvolto dal livello di attenzione alimentare, cioè mi sembrava il nutrizionista Cruciani. Mi sembrava di stare a cena con Cruciani, cioè uno che non mangia. Sai che divertimento. Allora, No, dare a cena con Cruciani, con Cassano, secondo me ti diverti. Guarda, un'immagine, ha tolto un pezzettino di formaggio, guarda, un'immagine che... di una tristezza sconfinata. Allucinante. Però io dico, hai capito? Senti, abbiamo la pagina per gli scommettitori, poi torniamo. 8:24 dopo giornale radio, di nuovo qui con Pierluigi Pardo e con voi. Quote e pronostici. Si avvicina ad alta velocità la finale di Champions League, in programma sabato sera alle 20:45 allo stadio Da Luz di Lisbona. L'Atletico Madrid di Simeone, dopo aver alzato al cielo di Barcellona l'urlo per la vittoria della Liga, sfida gli eterni rivali del Real Madrid in un derby che vale il trono d'Europa. Allora vediamo quali sono le quote SNAI per questa attesissima gara. Favorito è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che sogna la decima, e allora l'1 è quotato 1,85, il pari nei 90 minuti, l'X è quotato 3,50, il successo dell'Atletico del Cholo Simeone, il 2, è quotato invece 4,25. Questa sera in campo per i playoff ancora la Serie A di basket, e allora si giocano due partite alle ore 21:05, in campo Siena contro Reggio Emilia. La vittoria di Siena, l'1, è quotata 1,83, l'X è a 2,85, il 2, il successo di Reggio Emilia sul campo di Siena, è quotato 5. Tutti convocati. É tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, ha, ha, o lepo, lepo. Direi veramente soddisfacente, ecco, il ragazzo è molto più tirato, anche fisicamente tirato, si allena, si sta allenando molto bene, con grande impegno, anche molto motivato di questa nuova avventura. Per cui sicuramente direi che è stato un riscontro rassicurante. Vai mi querer, agora eu vou saber a verdade, se è dinheiro, se è amor o cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho piace, però lui certe volte fa delle provocazioni, ma bisogna anche capirlo, no? Perché è un ragazzo che... Io posso dire come sta Giuseppe Rosso ad oggi, cioè dopo 2 giorni e mezzo di ritiro con la nazionale. Ma in questo momento il ragazzo direi che sta abbastanza bene fisicamente, ha fatto tutto quello che abbiamo potuto fare in questi 2 giorni e mezzo. Chiaramente non posso dire se sarà convocato tra i 23 o meno, perché questa è una decisione che alla fine di questi 15 giorni farà il mister Prandelli. Certamente quello che possiamo fare noi dal punto di vista medico e dello staff tecnico è quello di monitorizzarlo e di seguirlo giorno per giorno. Allora, beh, caro Pierluigi Pardo, prima parte Castellacci su Cassano, parole di oggi, e seconda parte su Giuseppe Rossi, ma si sente già dalla differenza del tono, no? Beh sì, insomma, su Cassano mi sembra che ci sia un entusiasmo totale che secondo me deriva dal fatto che, insomma, che Cassano ha capito perfettamente, credo abbia capito perfettamente che questa è la sua ultima possibilità e fra l'altro è la sua... è la possibilità per il primo mondiale in carriera, quindi siamo di fronte a qualcosa di storico. Credo che ci arrivi con la maturità e con la serenità di sempre. Il discorso, secondo me, ma sicuramente Prandelli glielo farà se deciderà di portarlo, è che magari non sarà titolare, perlomeno non sarà sempre. Questo è un tema che con Cassano, col Cassano di qualche anno fa, onestamente, secondo me meritava di essere chiarito. Col Cassano di qualche anno fa. Cassano di oggi forse non ce n'è bisogno, però sai, ripetita Juve, come dicono, no? E quindi forse è un discorsetto che in ogni caso vale la pena fare. Pepito invece? Pepito, ma non mi sembrano parole molto entusiaste. No, vero? Però è anche vero che quello che possiamo fare è monitorizzarlo. Sì, beh, monitorarlo, sì. Vabbè, dai, già qua adesso ci scrive, per esempio Monica ci scrive la differenza fra Circuito, che chiaramente è colui il quale si è fatto ingannare, essendo Pirla, aggiunge Monica, e invece Circuito evidentemente è la pista da corsa. No, infatti, non avevamo dubbi. No, su Rossi, sì, non sono parole particolarmente entusiaste, se devo giudicare, però insomma, poi alla fine deciderà Prandelli, poi comunque Rossi sta recuperando, quindi forse bisogna sempre considerare rispetto alle aspettative che tipo di situazione c'è. Certo, Castellacci ha detto è arrivato, fa quello che può fare, sta abbastanza bene, insomma sì, non è... Senti, ma tu lo porteresti un giocatore a rischio a un mondiale? Ma Pepito merita il mondiale, secondo me. E se sta bene, dipende quanto è il rischio. Scusa, sembra un modo di non rispondere. Cioè, dipende da quanto è il rischio. Alla fine è veramente un'analisi costi-benefici. Ti piace questa cosa? Nel senso che Rossi ha delle caratteristiche, secondo me, ma può essere anche un giocatore tattico. Cioè, fare quello che ha fatto la Fiorentina nelle ultime partite. Il mondiale comincia fra... Esatto, il nostro mondiale comincia 14, ecco, fra 23 giorni. Cioè di tempo ce n'è, di tempo ce n'è, comincia fra 23 giorni e poi va avanti e speriamo che possa crescere il nostro mondiale dall'inizio di luglio in poi, quindi secondo me prima di non portarlo ci penserei mille volte, onestamente. Io porterei, comunque in generale porterei 5 più Cerci, non farei 4 infatti, più Cerci. Non capisco perché questa masturbazione mentale. Probabilmente sulla, dipenderà molto anche ruoli. Da Rossi. Io ho la sensazione che Rossi sarà proprio un jolly, cioè che Rossi sarà un giocatore, cioè se verrà portato ci saranno 5 più Rossi. Sì. Se non verrà portato saranno, cioè 5 più Cerci. Se non verrà portato saranno 4 più Cerci. Ci fermiamo per il traffico e poi torniamo, cominciamo a parlare. Ce l'hai? Non c'è. Perché mi fai fermare per il traffico? Tutte le volte mi fermo per il traffico. Sono anni dalle 15 alle 16, sono un po' meno fedelissimo dalle 15 alle 16, ma sono anni che non, sono c'è, anni il traffico, che non c'è il traffico. Comunque, diciamo, le uniche code sono, le posso dire, a Nogarole Rocca, dove c'è un chilometro con nello spogliatoio della sua squadra amatoriale, gioca con gli amici e le parole d'ordine sono il signor Cruciani e Nogarole Rocca. Questo ci fa piacere. Volevo leggerti un messaggio sulla Juventus con una base appropriata, però. Allora, senti questo. Sembra ieri che sei arrivata e oggi compi 18 anni. E uno pensa che è la figlia. Facciamo gli auguri alla signorina. No. Vialli era capitano. Conte, ancora un giocatore e non il tecnico dei record. Peruzzi difendeva la porta della Juve, non quella della nazionale vecchie glorie Italia-Brasile di martedì, tra parentesi. Jugovic. Jugovic, il contatto, la palla in rete, gol! Chi era, Pizzu? Chi era che l'ha fatta, Pizzu? No, no, forse, scusa, era Mediaset, quindi era o Piccinini o Longhi. Forse Longhi, forse il signor Longhi. Insomma, auguri, ultima Coppa dei Campioni vinta dalla Juve. Roma, Stadio Olimpico, 22 maggio 1996. Juventus, Ajax, 4-3, dopo i calci di rigore. Dove eri tu? Pizzeria, mi ricordo. No, io ero a Londra a fare l'Erasmus, l'ho vista nella casa di Charlton, vicino allo stadio del Charlton Athletics. Sì, visto, sì, abitavamo e vista a casa. Fu una grande partita non indimenticabile. Fu una grande libidina e devo dire che al di là di tutto, insomma, mi ricordo di quegli anni lì che eravamo veramente fighi. Cioè, il calcio italiano, insomma, ho fatto l'Erasmus nel 95-96. Mm. Andavo quasi tutte le settimane a vedere partite con gli accrediti, insomma, collaboravo con un piccolo giornale, ma quindi andavo tutti i sabati a vedere una partita a Londra, e però insomma eravamo i fighi, cioè eravamo proprio il calcio di riferimento, devo dire anche dal punto di vista estetico eravamo, c'era proprio il mito degli italiani in quegli anni, in quegli anni 90, almeno in Inghilterra, insomma. Adesso un po' meno, eh. Adesso un po' meno. Adesso, non so se... adesso non basta i soldi della Camorra per comprare Ganso. Beh, dice quella è veramente una roba inqualificabile. Marco Belinazzo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Il signor Belinazzo. Il signor Belinazzo, come va? Oggi in versione inviato. In versione non inviato. So, ti ha chiamato Foroni? Guarda, no, però ti posso dire che sono in un posto a Milano, l'ex, anzi, Palazzo del Ghiaccio, anche se non c'è il ghiaccio in questo momento, ma sono in mezzo a 300-400 procuratori, dirigenti sportivi, direttori sportivi che stanno parlando da questa mattina, scrivono sui foglietti, per un pre-calciomercato. Certo. Nell'ambito di White Scout, e devo dire, insomma, soldi non ne girano, no. Però tante idee, tanti affari, squadre da tutto il mondo, e chissà quanti campioni italiani. Su questo, ti volevo chiedere, può essere paradossalmente che dalla crisi possa venire fuori invece il talento, nel senso che proprio per il fatto che i soldi sono pochi e le idee per forza devono essere molte, questa potrebbe essere una fase capace di aiutare e di favorire chi ci vede più lungo, cioè dalla sfiga di questo periodo nel quale ovviamente non possiamo andare a comprare Cristiano Ronaldo e Messi perché non abbiamo i soldi, potrebbe nascere una competitività diversa, insomma la differenza la fa chi riesce per esempio a trovare grandi talenti quando sono ancora giovani. Dobbiamo viverla così? Pier, deve essere così e io sono convinto che sarà così, a patto però che si smettano di acquistare bidoni e mezzi bidoni in giro per il mondo, come dire, per altri motivi non propriamente calcistici, e finalmente si investa di più sul vivaio e si creda nei giovani italiani. Questo permetterà sia alle società italiane, come dire, di risparmiare qualcosa, sia di fare le squadre che in prospettiva possano fornire anche materiale umano di grande qualità per la nazionale. Deve essere così perché d'altro canto non ci sono vie d'uscita, insomma, non certamente non possiamo più andare in giro per il mondo come gli anni 90 che ricordavi tu ad acquistare i campioni, ecco, ma dobbiamo produrli sul territorio. Senti Marco, visto che sono uno degli esseri meno tecnologici che io conosca, riferito a me stesso, mi spieghi cos'è questo White Scout che Pardo conosce perfettamente? Io guarda, è l'ho scaricato. Innanzitutto è un prodotto di una piccola società italiana che ha sede a Chiavari e che nel giro di pochi anni è diventata leader mondiale perché ha tra i propri clienti tutte le società calcistiche del mondo, oltre che i procuratori e i giocatori, quindi dobbiamo andare fieri di queste piccole realtà che crescono, di queste start-up italiane. Si dice sempre che non l'Italia appunto non riesce a investire, a costruire, a migliorarsi, quindi questo è in primo merito. E in secondo luogo è un prodotto fantastico, neanch'io insomma sono molto avvezzo alla tecnologia, però è un prodotto che insomma permette alle società di avere nel palmo della mano, in un iPhone, l'archivio di tutti i giocatori del mondo, di tutte le loro azioni, di tutte le loro caratteristiche, e quindi permette per esempio di risparmiare molto sul servizio scouting. Senti, l'inventore di questo sistema, insomma, mi pare sia lì vicino a te? Sì, guarda, passano. Salvano Matteo, sì, Campodonico, e vi spiegherà lui meglio, insomma, di quanto non abbia cercato di fare io. Ve lo passo. Sì, grazie. I potenti mezzi di Radio 4 permettono di arrivare ovunque. Ecco, ve lo passo. Eccolo, pronto? Ciao Matteo, come va? Matteo? Eccoci, piacere. Ciao. Perché Y Scout è una rivoluzione? Dillo forte e chiaro, perché noi già lo sappiamo, ma è veramente una rivoluzione. Per gli appassionati, ma direi soprattutto per le società, no? Per gli addetti ai lavori è molto utile averlo, ma soprattutto è un prodotto per le società, questo, no? Per... Sì, noi con la società, diciamo, quando siamo partiti si usavano i DVD, cioè per comprare i giocatori, i club guardavano i DVD con gli highlights dei calciatori, ma capite bene che se io faccio un highlight anche di me stesso posso essere buono anch'io. Certo. No? E quindi è vero, spesso i club compravano l'ultimo giorno di mercato i calciatori vedendosi i live, perché non dovevano chiudere la trattativa, non avevano tempo, fammi vedere due robe. Questo oggi non è più possibile, cioè noi abbiamo portato tutto un modo di studiare il calciatore in tempo reale, che oggi non ci sono più scuse, diciamo. Quindi chi si abbona a Y Scout, che cosa ha? Vedi anche i difetti, insomma. Profili, sì, abbiamo profili di oggi 200.000 calciatori nel mondo, profili, dati, informazioni, contatti con la gente, contatti col club, fino a tutta un'analisi video, i dati di performance, come gioca, come non gioca, lo puoi comparare ad altri giocatori, è un mondo infinito, però questo è il sistema oggi. Sì, c'era una volta la famosa stanza dei televisori dell'Udinese, no? Che aveva fatto rivoluzione. L'Udinese ovviamente è uno dei nostri primi clienti e partner, poi con loro lavoriamo tanto, e perché loro partivano da lì. Chiaramente oggi il club, il problema è che il mercato è diventato globale velocemente. Quindi mentre prima tu potevi permetterti di dire mi osservo col mio televisore il Brasile, l'Argentina e qualcosa di più, oggi tu puoi comprare un giocatore in India, puoi comprare un giocatore in Uruguay, puoi comprare un giovane che gioca in Francia ma viene dal Congo. Sì. Questo è il mercato, quindi per un club è impossibile farsi tutto in casa. Quindi noi essenzialmente abbiamo creato un sistema che in realtà prendiamo in outsourcing da tutti i club sul mondo la sala video dell'Udinese. Senti, cos'è lo speed dating, che sappiamo a un certo punto è diventato una moda per incontri fra singles, ma qui c'è il football, speed dating, o sbaglio? Esattamente, proprio questo. Oggi c'è anche Milano, l'idea era stata quella, proprio perché il mercato è globale, in Italia si conoscono tutti, si vogliono tutti bene, non c'è bisogno di Y Scout per far parlare Marotta con Sabatini, è evidente. Certo. Però per far parlare il Bologna con l'Atletico Paranense, questo già è un più po' difficile. Più Y Scout è questo, cioè una piattaforma virtuale per iniziare i contatti, vedere i giocatori, prendere riferimenti. Poi due volte all'anno, prima del mercato, ci si incontra tutti insieme. Oggi siamo a Milano, a Londra, a Rio, eccetera, e gli incontri diventano faccia a faccia, attorno al tavolino, e ogni 20 minuti cambia tavoli, così tu in un giorno, con un viaggio, incontri non tre club, ma 30, 40, certo, nuove certo, opportunità, certo. Apri il mercato, apri nuove, ecco, questa è un po' l'idea. Senti, il potere della conoscenza e della informazione. No, io devo dire la verità, veramente Y Scout è una roba eccezionale, cioè è veramente, appunto, come diceva Berinazzo giustamente, una di quei piccoli grandi esempi di genialità italiana, ecco, faccio proprio il nazional popolare, perché secondo me è così, cioè è un'idea semplice se vuoi, ma un'idea geniale nella semplicità. C'è una versione anche per giocatori, può essere utile anche ai calciatori? Sì, noi abbiamo più di 1000 calciatori, anche top giocatori, che usano il sistema per prepararsi la partita. Cioè io sono sul pullman, devo andare a giocare contro il Catania, mi posso vedere come battono i rigori gli attaccanti del Catania, come li battono, dove li battono, senza chiedere niente a nessuno, con le mie cuffie, concentrato. E poi c'è un lavoro quotidiano, il mister invia al calciatore sul suo iPhone o sul suo iPad, guardati questo, guardati quell'altro, invia uno strumento di location del calciatore attraverso il video, che erano le cose più semplici. Tra un po' spariranno anche le famose sedute video così pallose per i giocatori. Noi siamo partiti da lì, è l'evoluzione da tutta vita. L'evoluzione della specie. Grazie, ciao bocca Matteo. Lupo, Grazie mille. Ciao voi. Matteo Campadonico, ciao, salutaci ciao. Berinazzo. Volevo fargli far di Marzio. Berinazzo, avevo una mezza idea di fargli fare Berinazzo. Che succede lì? Dacci le ultimissime. Sì, vai, c'è Berinazzo. C'è Berinazzo? Adesso, aspetta, poi lo richiamiamo. Ciao. Fagli fare una raffichetta. Marco? Ok, aspettate. Grazie. Però nella raffica ci devono essere anche storie un po' minimal, perché sennò non vale. Sì, anche false, eh? No, ma false, però ci deve essere pure qualche terzino di Lega Pro, cioè, con tutto rispetto, ovviamente. Io stavo, mi sono. Allora, fai di Marzio. Cercavo un po' di giocatori per una squadra del sud che mi pare abbia un po' di problemi di finanziamento con la Camorra, ho sentito. Sì, qualche problema non gli danno. La Camorra non concede, non fa il bonifico in Brasile. Quindi non arriva Ganso, mi spiace. No, fai di Marzio, dacci una raffica di notizie, le ultimissime. Chi compra chi? Chi compra chi è un po' complicato da dire e non posso sostituire Marzio, è impareggiabile, non ci riuscirei mai. Però vedo anche qui c'era il direttore sportivo dell'Udinese, c'era il nuovo direttore sportivo del Milan che ha sostituito Braida, che si presentava agli altri procuratori sportivi, insomma si sta parlando, vedo molte persone scrivere, prende appunti. Spia, sbircia sui taccuini, ruba informazioni, ruba notizie. Vedo il tavolo del Brescia, vediamo qui chi c'è. C'è il Botafogo, seduto accanto al Brescia. Il Bolton, perché sono in ordine alfabetico, Bayer Leverkusen sta trattando un affare in questo momento, insomma mi sembro, non so, non ho fornito nomi ma indicazioni sì. Senti, vogliamo, dia quelli del Brescia che vogliamo in Serie A Sodigna, attaccante di una certa stazza. Guarda, il Brescia in questo momento sono andati a prendere un caffè, quindi non posso parlare, evidentemente non gli interessa Catania, anche qui si tratta in maniera assidua. Insomma, il calciomercato praticamente potrebbe chiudersi oggi. Adesso, potrebbe chiudersi ufficialmente oggi. Ma non possiamo dire colpi perché altrimenti, certo, insomma, poi 3 mesi di trasmissione, insomma, perché altrimenti i colpi. Ci daremmo la zappa sui piedi, classica. Sì. Ecco, Real Pride. Quindi noi allora facciamo così, noi sappiamo tutto ma non ve lo diciamo, ve lo diremo a rate nel corso. Allora gli interisti in ascolto ci segnalano che 4 anni fa c'era la finale al Bernabeu, 22 maggio evidentemente porta bene al calcio italiano, dopo abbiamo ricordato quella, grazie a quell'ascoltatore di prima, la finale della Juve, quindi questo va detto. Va bene Berinazzo, ma invece dal punto di vista del business vero, questi dirigenti stanno crescendo, riusciranno a fare valore aggiunto? Perché qua insomma al di là di tutto mi sembra che il problema del calcio è quello lì, che bisogna riuscire a creare nuove fonti che producano reddito oltre ai diritti televisivi. Pier, è una battaglia, come dire, anche culturale, ora non voglio dire cose banali, però è veramente questo insomma che bisogna fare, perché parlare oggi di, io l'altro giorno ero a un convegno, c'era il presidente Abete, ha fatto un discorso molto chiaro, no? Però ha messo al primo posto il calcio come elemento sportivo, come fenomeno sociale, ha detto sì, poi le società devono essere gestite bene, ma non è quello il problema. Io credo che bisogna, salvaguardando quello che è l'aspetto sportivo e sociale del calcio, certo, e indubbiamente lo è, però non si può avere, come dire, un spocchia nel gestire, nel valutare, ecco, l'aspetto economico del calcio. Assolutamente. Perché il fair play finanziario, di cui tanto si è discusso, ha due principi di cui si parla poco alla sua base. Il primo è che le squadre devono appartenere moralmente, appartengono a una comunità di tifosi e non ai presidenti, non a sceicchi che li usano come giocattolo e magari se ne vanno. E il secondo è che non è tanto una questione di risparmiare, di ridurre i costi, ma il principio è che le società di calcio, se gestite bene, possono produrre utili. È questo è il punto. Il punto è quello là. I posti senza fondo, e il problema finanziario spinge, al di là di quello che è stato scritto e si è detto, non tanto a punire chi spende troppo, ma a punire chi non riesce a produrre utili con una società di calcio. Se tu non hai dei manager qualificati. Sì, non è la spesa complessiva, non è il prezzo di un giocatore, ma il rapporto fra quanto tu riesci a fatturare. Esatto. Anche perché non possiamo dire che, ad esempio, il Bayern Monaco spenda poco per il calcio, spende un pozzo di soldi, però è strutturato in maniera perfetta. Vogliamo ricordare al volo la differenza, diciamo, fra la prima. Dobbiamo ricordare al volo la borsa. convocati. Vediamo un po' di ascoltatore per Luigi. Claro che sì, sì. Vai, dai. Dai, Maurizio, provincia di Genova, buongiorno. Buongiorno, volevo un po' parlare del fatto Conte, ma siete proprio sicuri che rimanga la Juve? Perché la società e Conte non hanno fatto altro che confermare l'anno di contratto che hanno. E sabato c'è una partita importante a Madrid. Sì. Dove Ancelotti, secondo me, si gioca la panchina, in quanto la squadra che vincerebbe se non Ancelotti sarebbe l'Atletico Madrid, come non so parlare del Torino che vince la Champions, il campionato contro la... Quindi? Che riflessi quindi potrebbe avere? Quindi Real? O l'Atletico Madrid, insomma, scambio di allenatori, Florentino, tanto vale tutto. Florentino Perez su Conte, insomma, lo apprezza anche, visto la fatica che ha fatto il Real nel doppio confronto. E quindi, insomma, no, possiamo... Florentino ha preso un sacco di allenatori vincenti in Champions e non riesce a vincerla, potrebbe essere uno che ha fame di vincere in Champions. Sì, dall'altro lato però potremmo dire, sarebbe un azzardo, visto che Florentino Perez ha questa ossessione, prendere un allenatore che in Champions non ha mai vinto. Ma insomma, dai, tutto può succedere, che Conte sì, piaccia vale in giro, non ci sono dubbi, che gli sia mancata quest'anno una legittimazione internazionale è altrettanto vero, insomma. Io non penso che Ancelotti rischi la panchina, sinceramente. Ancelotti ha portato il Real a vincere la Coppa del Re, ha portato il Real in finale di Champions League. Poi certo, quella partita fa la differenza, come la differenza fra il giorno e la notte, se la vinci o se la perdi. E poi non so neanche dirti esattamente dal punto di vista psicologico che succede, nel senso che il paradosso secondo me è che se Ancelotti vince la Coppa magari potrebbe voglia di andarsene, certo, da vincitore per fare un'altra questo esperienza, sì. Perché tanto dopo che hai vinto la decima, che per il Real era diventata un'ossessione, sì, che altro c'è? Ma pago tutte le illazioni possibili. Vale tutto. Io so che sta molto bene a Madrid, questo in assoluto, ma non è stato un anno facile. Per lui è stato un anno all'inizio abbastanza complicato, quando venne qui in Italia per Juve Real. Ci ho parlato un po', mi sembrava abbastanza stanco, abbastanza... primi mesi non credo siano stati facili, poi adesso si sta togliendo le soddisfazioni, è chiaro, se dovesse vincere la finale sarebbe clamoroso. Anche questa voce del Milan, che è una voce oggettivamente molto fantasiosa, è difficile perché in questo momento la distanza fra Real e Milan è enorme, però insomma poi ci sono anche di altre dinamiche, c'è il cuore. Tu dici, dopo aver vinto la decima a Madrid, ho fatto tutto quello che potevo torno a casa, ma io non dico ci che credo, vale . Tutto, no, ma vale anch'io, tutto. Anch'io penso sia più probabile che lui rimanga, però insomma voglio dire che poi comincia una nuova partita. Noi al momento del futuro di Ancelotti e anche di quello di Simeone, perché poi Simeone è un outsider, no? Ma le panchine sono anche finite, cioè, sì, non è che ce ne sono poi moltissime in giro. Prima Luca Marchetti diceva che paradossalmente quanto al Milan le voci più credibili sono quelle opposte e più improbabili, cioè il ritorno di Ancelotti, la permanenza di Seedorf, sono i due estremi della più assurdi, più lontani, e diceva che al momento potrebbero essere le due ipotesi più effettivamente ci più sta ventiere. Ci sta, anche se sono chiaramente lontanissime. Tanto noi ci siamo scatenati durante nel Borsa, sì. Time, allora compleanno della Coppa dei Campioni, sì, della Juventus, 22 ho anche maggio. Twittato, guarda, anche twittato, poi ho twittato oggi anniversario della prima e ultima Coppa Campioni vinta dalle italiane, qui copyright del signor Genta, Milan, Benfica, Inter, Bayern, poi ho messo tra parentesi e anche Juve, Ajax, e uno mi fa: ma come anche? Sì, non è che è meno importante, che la prima, sì, l'ultima. L'ultima che... hanno al momento un certo significato. Dai, no? Cerchiamolo. 63 Milan, 2-1 sul Benfica. Prima Coppa dei Campioni del Milan del calcio italiano, e poi l'ultima, quella dell'Inter. In mezzo, ovviamente, quella della Juventus. Poi, certo, poi c'è anche il computo di tutte le Coppe dei Campioni. Abbiamo fatto a memoria, ovviamente sbagliando, poi siamo andati a controllare. Allora la Spagna ne ha 13, però già 14, perché una delle due la vince. Primi in classifica, quindi l'Italia ne ha 12, l'Inghilterra 12, la Germania 7, il nostro tanto vituperato Europallone secondo in classifica con l'Inghilterra dietro, sì, la Spagna. Sì, però qualche anno fa eravamo primi staccati, se tu l'avessi, sì, fatta nel 2003-2004, insomma. E poi il dato più incredibile del calcio italiano è la Coppa UEFA, perché la Coppa UEFA ne abbiamo vinta, mi pare, 8 in 11 anni, fino all'ultimo successo del 99 con il Parma. E da quel momento in poi non abbiamo più toccato palla, cioè non siamo neanche mai più andati in finale, sì. E questo è abbastanza incredibile, perché ripeto, al di là del fatto che sicuramente siamo calati, ma non siamo calati così tanto, vuol dire proprio che la snobbiamo e siamo dei fessi, lo dico proprio in maniera molto, allora, semplice. Concorsi. Migliore in campo ogni giorno, magliette di tutti i convocati, da tra poco tocca a Michelangelo da Rimini. E poi inviateci Sti Benedetti, file, audio, argomento, il pagellone del campionato. Andate sul nostro sito radio24.it, mandateci un MP3, sarete capaci, io no, ma voi sarete capaci sicuramente, un MP3 di un minuto con il vostro, fatevi sentire la vostra voce, vi vogliamo qui in studio a ritirare la maglietta e a parlare con noi. Oh, Michelangelo, Rimini, buongiorno. Ciao Pardo, ciao Genta, ciao, grazie ciao. Per la convocazione, ciao. Allora, due cose velocissimamente. La prima, volevo riprendere un po' il discorso di Briatore, che dice che Alonso non ride perché da quando ha 14 anni che guida solo macchine e vede solo circuiti. Aggiungo io, ha visto anche un discreto numero di belle gnocche, ecco. E se non ride lui, qui siamo tutti con la M fino al collo. Chi deve ridere sopra la fronte? Se non ride lui, il grande favorito per il premio, non possiamo dire. È bastato carità, dire la parola magica, Poi tu Pardo ne sai, ne conosci, ma ne apprezzi, io, diciamo. Sono spettatore non pagato. Dai, fai outing su. Non dire così. Altra cosa veloce, un esempio di calcio che porto dalle leghe minori è quello dell'Ascoli Calcio, che è stata acquistata dal signor Bellini, che è un magnate dell'industria farmaceutica canadese. Ho temuto su Magna, ho temuto veramente, è un magnate, un tycoon. Un magnate, no, sì, è tra i primi 10 è un grande progetto. Assolutamente. Ecco, io prendo questo come spunto per dirvi che forse che il nostro calcio è così peggiorato che può solo migliorare, quindi viene considerato un po' come una di quelle economie amene dell'Est Europa dove l'investimento porta subito frutti. Quindi secondo me ci dobbiamo aspettare una nuova golden age del calcio italiano. Vi ringrazio e vi ascolto. Grande ottimismo. Io lo spero. Penso che valga un po' il discorso che vale per l'Italia. Cioè, finché stiamo qui a farci la guerra o gli uni con gli altri o a rimpiangere il passato, che chiaramente sarà un passato uguale. Io qua adesso ho preso l'albo d'oro della Coppa UEFA. L'ultima vinta appunto nel 99, siamo il paese che ne ha vinte di più, ma dal 99 non abbiamo più una squadra in finale. Questo è abbastanza incredibile, no? Perché comunque la seconda competizione europea negli ultimi anni l'hanno vinta Siviglia, Chelsea, Atletico Madrid, Porto, Shakhtar, Zenit. Però abbiamo vissuto una golden age, è vero, negli anni 80, soprattutto 90. Prima di quella età dell'oro c'era stata la grande Inter e c'è stato il Milan di Rivera. Insomma, sono un po' corsi e ricorsi. Ci sono corsi e ricorsi, però attenzione, perché rispetto agli anni scorsi, oggi l'elemento business, che ci piaccia o no, è diventato dominante. Se voi guardate la differenza fra le grandissime squadre, cioè è molto più improbabile rispetto al passato avere delle squadre di seconda fascia che vincono i campionati. Il caso dell'Atletico Madrid di quest'anno è clamoroso, è pazzesco, o che vanno molto avanti in Europa. Ormai esiste veramente uno zoccolo duro di 12-15 squadre in giro per l'Europa, forse anche di meno, che sono quelle che vincono. Ma certo, perché i successi portano altri successi, portano soldi e si alimenta un meccanismo che allarga la forbice fra le grandi e le piccole. Io ho paura che stiamo perdendo il treno. Noi abbiamo ancora la forza incredibile di alcuni brand del calcio italiano. Abbiamo la forza del nostro paese che è straordinaria. Pallotta è venuto a Roma perché si chiama Roma, che è un brand al mondo favoloso. Si è parlato degli interessamenti degli arabi per il Cagliari, perché la Sardegna chiaramente è una terra conosciuta in tutto il mondo come uno dei luoghi più belli del globo. Purtroppo se ne sono parlato. Ma voglio dirti, cioè, questa cosa qui è importante, però occhio, perché non è come una volta. Cioè, una volta c'era il periodo in cui gli olandesi negli anni 70, certi momenti il calcio inglese ha dominato anni 70, anni 80, erano cose fisiologiche legate a generazioni di atleti. Adesso non sono gli atleti, adesso il calcio non è che conta se è più forte il calcio italiano o quello spagnolo come paese, conta chi ha le strutture migliori, chi ha le società più forti, chi fattura di più. Dovremmo richiamare Beninazzo. Allora noi fatturiamo purtroppo drammaticamente molto meno di spagnoli e inglesi e dobbiamo rimetterci in pari in un modo o nell'altro, dobbiamo farlo anche in fretta, perché se perdiamo l'attimo, secondo me rischiamo poi veramente fra 10-15 anni di non recuperarlo più. Credo sia una questione manageriale, perché noi gestiamo il calcio in Italia, viene gestito il calcio come si faceva negli anni 50, 60 eccetera. Manageriale altrove, anche politico, perché sicuramente ci sono tutta una serie di lacciuoli burocratici che per tanti anni hanno ostacolato. Cioè, quello che noi abbiamo perso nel 1990, noi abbiamo fatto un mondiale 24 anni fa, dovremmo avere gli stadi, non dico ipermoderni, ma dovremmo avere gli normali. Stadi molto molto buoni. Dovremmo avere 12 stadi molto molto buoni in Italia. Insomma, Sant'Elia ci siete stati? E invece guarda tanto lì. Per farne uno di questi 12 esempi. Vuoi sentire il traffico? Nogaro e Locca, via. Non riesco neanche più a dirlo. Traffico. Tutti convocati. Ma soprattutto un sacco di sorca. Questa è la limitazione degli autogol. Limitazione degli autogol. Abbiamo messo questo momento volgare perché ci stiamo avvicinando alla Zanzara che torna alle 18.30. Ma prima cultura, cultura fra poco, Matteo Caccia, l'ho visto già. Sì, Matteo cultura, Caccia, cultura. Però cultura pop, alto basso, alto basso col signor Caccia. E noi che facciamo? Basso, noi basso, basso facciamo. Noi basso. Noi fatturiamo meno perché siamo i campioni mondiali di evasione fiscale, ci scrive Aldo da Milano. Però fatturiamo un sacco di ascoltatori. Che non è il marciatore da Milano, è quello della Maurizio, scusate la battutaccia. Del Piero che smette di giocare, cosa farà il prossimo anno? Andate a vedere, Ulisse ci scrive. Chiameremo Del Piero e chiediamo che fai l'anno prossimo. Senti, qual è il tuo rapporto del Giro d'Italia, qual è? È buono, è una di quelle cose che sogno di poter seguire un giorno. Da... Ma pensavo fare un giorno. No, beh, fare no, mi stanco solo a guardarli. Però bello, io devo dire che insomma, poi non penso che non lo farò mai perché continuerò a fare calcio, però è una di quelle cose. Condò mi fa dei racconti meravigliosi sulla bellezza del... Tra l'altro penso che in... quanto dura il Giro d'Italia? 20 giorni? Sì, 10 kg in 20 giorni potrei prendere, perché... Sì, no? Questo mi sembra proprio matematico, perché... Perché è così, il Giro d'Italia vuol dire molte cose, una delle quali è questa. Vero Stagi, Pier Augusto? Ciao Carlo, ciao. Buon pomeriggio. Tra l'altro siete nelle Langhe, giusto? Sì, siamo più Langhe di così se muore. Sì. Quindi parliamo proprio di cibo, insomma, una delle eccellenze, siamo... Eccellenza di cibo, eccellenza di vini... Siamo partiti da Barbaresco e arriviamo a Barolo. Barbaresco Barolo ha tappa più di così. La tappa Barbaresco Barolo è fantastica. Tra l'altro mi dicevi che c'è questa novità anche per i ciclisti che ai punti di ristoro oggi non ricevono la tradizionale bottiglia d'acqua all'integratore, ma ricevono proprio il grignolino. Il rosso. Sì, il rosso. Guarda, ho già bevuto un paio di bicchieri e sono in condizioni pietose. Sì, figurati, sono le 15.51. Cade l'Evans, parte alle 16.20 per le 18. Garantito, 18. Per le 18. No, sei veramente in una condizione, cioè è questo il tono normale oppure cantare? No, vai, cantare. canta qualcosa. Lasciamo perdere, dai, vorrei farvi chiudere la radio. No, ma figurati, guarda, qui prima che chiudo, abbiamo fatto talmente peggio. Tu dici che ci vuole ben altro? Ci vuole ben altro. Ma oggi è decisivo quasi, decisiva all'intertempo, insomma. Prima tappa con un senso. Grande senso. Oggi diciamo che cominciamo a fare sul serio. E poi sabato ci sono le prime montagne Europa, poi Monte Campione, entriamo nella fase calda, anche se qua continua invece a far freddo, a piovere, infatti tanta acqua nella tappa del vino e cosa che ti dico, qui si sta scatenando di tutto. Però io spero di vedere una Non sei in grado, ci rendiamo conto, hai bevuto, cioè io lo dico con grandissimo affetto, con grande affetto e anche con molta invidia, devo dire la verità, insomma. Tanta acqua nella tappa del vino. Diamo il nome di qualche ciclista, così per rendere questo collegamento, per dare un minimo un barlume. Ma sono tutti australiani. Hanno vinto gli australiani e basta. No, adesso al comando c'è un belga che sono presente, che ha fatto il miglior tempo, tanto per incominciare. E secondo un belga a caso, poi... diciamo, cioè un belga. un belga che passava. Avete bevuto anche voi, però? Noi siamo qui, siamo invidiosi. Qualche nome, io vi faccio qualche nome. Volete che vi dica? Se in testa c'è De Gendt, Dario Cataldo, italianissimo, purtroppo non è riuscito a fare il miglior tempo per pochissimi secondi. Però i corridori più importanti, quelli che si giocheranno questo Giro d'Italia, devono ancora partire, arrivano per ultimi. E l'ultimissimo sarà Cade l'Evans Maglia Rosa, grande favorita di questa crono, che potrebbe incrementare il suo vantaggio su Rigoberto Urán, su Quintana, sul nostro Pozzo Vivo. Io voglio vedere Aru, per cui ho dichiarato una predilezione. Guarda, già ieri. Aru partirà, tra un po', alle 16.05. 16.05 sarà determinante 16.05. Per capire cosa, questa cronometra è determinante per capire cosa questo ragazzo può dare nel Giro d'Italia ora in corso. Ci sentiamo dopo le 6 per sentire com'è andata da te. Ciao. Ciao, grazie. Amico mio, buona cena. Migliore incanto di oggi? Eccolo qua al momento. Beh. Michelangelo Rimini, buongiorno. Ciao Pardo, ciao Genta, grazie per la convocazione, ciao. Allora, due cose velocissimamente. La prima, volevo riprendere un po' il discorso di Briatore, che dice che Alonso non ride perché da quando ha 14 anni che guida solo macchine, solo circuiti. Aggiungo io, ha visto anche un discreto numero di belle gnocche, ecco. E se non ride lui, qui siamo tutti con la M fino al collo, chi deve ridere sopra la fronte. Se non ride lui, il grande favorito per il premio, non possiamo dire. È bastato dire la parola magica, Poi tu, Pardo, ne sai, ne conosci. Vai, ne apprezzi, diciamo. Sono spettatore non pagante. Dai, fai outing su. Non dire questo. Migliore in campo scontato. Troppo facile. La volgarità vince sempre. Come Maradona nell'area della Cavese. È molto triste. Nell'area della Cavese. Chiaro, facile, a mani basse. Va bene, ragazzi, vado a vedermi le 16.05. Parte. Tra l'altro, Caccia si interconnette, no? Con il Giro d'Italia fra poco si interconnette. Beh, molto letterario il ciclismo. Certamente. Dobbiamo ciao andare. Ragazzi, ciao. Prego, il dottore di questo programma. Scaltritti. Scaltritti, Ferronato. Ferronato, Scaltritti, il signor Marta Cagnola, la signorina Carbone.